L'intesa, a quanto pare, raggiunta sul MES non scioglie i nodi della maggioranza, le prese con uno scontro interno sulla struttura per gestire i soldi europei. Italia Viva, contraria, arriva a minacciare la rottura e quindi di fatto il rischio di caduta del governo. Mentre continua a calare la pressione su ospedali e terapie intensive, dalla Gran Bretagna arriva la notizia della prima vaccinata, una donna di 90 anni. Il tutto in un'Italia pesantemente colpita dal maltempo, con Venezia nella quale ieri è tornata l'acqua alta e le paratie del Mose che però non si sono sollevate. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti e 40 secondi di mercoledì 9 dicembre, che doveva essere un po' il giorno clou del voto in Parlamento sulla riforma del Fondo Salva Stati, e invece il Movimento 5 Stelle è arrivato ad un accordo, un filino prevedibile la cosa, e quindi... E quindi su quel fronte evidentemente il governo non rischia, però la tensione, come vi dicevo, su Italia Viva c'è tutto, con Italia Viva c'è tutta. Ci arriviamo alle voci, oh. però, guardate, la notizia che mi ha, aperte virgolette, divertito di più, chiuse virgolette, di ieri è stata questa. La polizia è intervenuta per fermare una festa ovviamente abusiva, perché in questo periodo non si possono fare a sud di Milano. Hanno sequestrato cocaina, ecstasy e 75 tamponi rapidi. È così, ormai va così. Oh, si erano organizzati bene, dalle 16 c'era una persona che faceva tamponi rapidi a chi doveva venire alla festa. Si avevano i risultati e chi risultava negativo poteva tranquillamente accedere. L'ho scritto su Twitter ieri, qualche ascoltatore mi ha commentato che Milano si conferma un passo avanti in termini di contact tracing. Eh sì. Qualcun altro ha detto, pensavo che ci trovassero anche degli europarlamentari ungheresi. Sì, in effetti mancava in questa festa un europarlamentare ungherese. La sera leoni, la mattina tamponi. Sì, c'è anche questo. Va bene. 3:49-2:38-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E iniziamo da Matteo Renzi. Temo la rottura, dice. Spero proprio di no, però temo di sì, perché insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force, che sostituisce la seduta del Parlamento con una diretta Facebook e che addirittura pretende di sostituire i servizi segreti con una fondazione privata voluta dal Premier, significa una follia. Noi abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che i pieni poteri li diamo a Conte, Ed eccolo qua, dove qualcuno torna ad evocare in giro su qualche giornale questa storia della deriva autoritaria. Oh, io vi prego tutto, si può criticare la decisione del governo, ma questa storia della deriva autoritaria non ne posso più, è talmente ricorsiva in questo paese, perché hanno accusato Renzi di deriva autoritaria, hanno accusato Monti di deriva autoritaria, Berlusconi ha una laurea ad honorem in deriva autoritaria per tutte le volte che l'hanno accusato. A me pare poi magari mi sbaglio, che i meccanismi democratici di questo paese funzionino perfettamente. Allora, si può dire che questo governo non funzioni, si può dire che alcune cose non vadano bene, si può criticare su alcuni punti, ma vi prego, la deriva autoritaria no. Maria Elena Boschi ieri a 8:30 con una Lilli Gruber bella agguerrita con Meb. Noi abbiamo contribuito fortemente a far nascere il governo Conte ormai più di un anno fa, grazie a un'iniziativa di Renzi e nostra, quando ancora eravamo nel PD, per fermare i pieni poteri a Salvini. Certo, adesso però non siamo disponibili a dare pieni poteri a Conte. Su questa struttura, sostiene Boschi, Conte non dice la verità. Non dice sulla norma la verità. Sono previsti dei poteri sostitutivi delle amministrazioni centrali, è previsto che non ci sia il controllo della Corte dei Conti. E ancora, aggiunge Boschi, contestiamo le decisioni opache. Che quello che abbiamo fatto in passato noi l'abbiamo fatto nel rispetto delle regole, in Parlamento, rispettando le istituzioni fino alle estreme conseguenze, fino a perdere un referendum, proprio perché abbiamo dato la parola ai cittadini che hanno scelto legittimamente. Quello che contestiamo attualmente è che anziché farlo in Parlamento con rispetto delle regole, venga fatto nottetempo in modo opaco. Oh, vi do personalissima previsione, alla fine arrivano un accordo pure su questo. Già oggi iniziano a circolare le indiscrezioni secondo le quali Conte vorrebbe togliere un po' di poteri a queste strutture commissariali, togliere qualche elemento ulteriore, qualche elemento magari per esempio in tema di controllo da parte della Corte dei Conti o da parte dell'ANAC, perché l'idea alla fin fine su questi soldi e recovery fund, su questi fondi europei, questi 209 miliardi, è adottare il cosiddetto modello Genova, cioè quello che ha portato alla costruzione del ponte che ha sostituito il ponte Morandi. E però qua ci sono un po' di differenze, innanzitutto che quel ponte l'ha pagato Autostrade e non l'hanno pagato i cittadini italiani, poi quello è un ponte, qua si parla di progetti appunto per 209 miliardi, quindi forse un filino di attenzione in più bisogna mettercela in termini di controllo. Dall'altra parte è vero ed è dimostrato ed è chiaro, lo diciamo oggi tra l'altro nel giorno dello sciopero dei dipendenti pubblici, che la pubblica amministrazione italiana non è in grado di gestire, di mettere a terra, che è il grande problema italiano, e questo lo dicono tutti, cioè c'è l'ammissione da parte degli stessi ministri, abbiamo avuto ospite il ministro Provenzano l'altro giorno che l'ha detto nitidamente, la pubblica amministrazione italiana non è in grado di mettere a terra una mole di progetti di queste dimensioni. L'altro fronte è quello delle regioni, le quali dicono dovete coinvolgerci, non ci sono storie. Sentiamo Bonaccini. Rifacciano quello che vogliono. Quello che interessa a me e credo a noi è questo. Abbiamo chiesto l'incontro al Presidente del Consiglio. Due, abbiamo bisogno di capire esattamente come atterrano le linee, diciamo, essenziali, prioritarie del recovery plan, quei 210 miliardi di euro, e qual è il coinvolgimento delle regioni. Senza le regioni e i comuni nessun governo, anche il migliore al mondo, mette a terra in 6 anni 210 miliardi di progetti. Sempre, ed erano a carta bianca, sia Bonaccini che Luca Zaia, il quale Luca Zaia insieme a Bonaccini dice guardate, se vi ricordate l'abbiamo sottolineato ieri in rassegna stampa, era giorno di festa, magari qualcuno di voi non c'era, però questi 9 miliardi per la sanità, insomma piani per oltre 170 miliardi nei quali la sanità arriva solamente a 9, peraltro in assenza dei 37 miliardi dal fondo salva stati molto probabilmente alla fine l'Italia non prenderà, se una componente così importante della maggioranza, sia il Movimento 5 Stelle, questi soldi non li vuole prendere. E dunque Zaia e Bonaccini dicono sono troppi pochi. Scusi, sono un'inezia se sono 9. Ecco, io dico che se sono 9 miliardi di euro nel recovery plan, per quanto mi riguarda sono troppo pochi. Molto semplicemente, che poi è quello che dice anche il ministro della Salute Speranza, tanto che Matteo Renzi insiste, però devo dire la verità, un po' a vuoto, perché tanto il Movimento 5 Stelle su questo fronte non ci vuole sentire, dice vogliamo i soldi del MES sanitario. Voglio che ci siano i soldi del MES per la sanità. Più soldi alla sanità, anche col MES, e meno soldi ai consulenti e agli amici degli amici. Intanto sulla riforma del fondo salva stati, qualche ascoltatore ogni tanto ci chiede giustamente cosa prevede questa riforma del fondo salva stati. Ragazzi, allora, è una riforma estremamente complessa della quale abbiamo parlato lungamente, molti dettagli li trovate, tanto per fare un esempio, sul sito del Sole 24 Ore, però per riassumere molto brevemente, il timore di un pezzo, di una parte delle forze politiche. Allora, l'obiettivo della riforma del fondo salva stati sono una serie. Una di queste è poter rifornire il fondo che serve invece per salvare le banche nel caso si trovi a corto di liquidità. Il secondo punto è quello di rendere più ordinato il default di un paese nel caso che appunto un paese vada in default, debba dichiarare fallimento totale o parziale sui suoi titoli di Stato. Ecco, in questo tentativo di renderlo più ordinato, semplificando il voto dei creditori per appunto decretare il fallimento, decretare il default di un paese, alcuni vedono, soprattutto nell'opposizione, una sorta di piede di porco, di grimaldello per spingere l'Italia verso un fallimento, verso una richiesta di soldi da parte del MES e quindi il controllo della Troica. Questo per semplificare all'estremo qual è la questione che divide la politica, per questo come spunto. La questione dell'acqua alta Venezia è, intanto, ecco, c'è stata un'opera, ci abbiamo messo troppi anni a farla, il MOSE che serve a salvare Venezia dall'acqua alta, e però quando serve non si attiva. Qual è il punto qua? Che ci sono state delle previsioni meteo che indicavano la marea sotto la soglia di intervento del MOSE e quindi non è stato attivato. Per attivarlo, le procedure attuali, che sono delle procedure di test, ci vogliono 48 ore per farlo attivare, e dunque che cosa succede? Ecco una testimonianza dai social. Ecco, siamo all'interno della Basilica di San Marco. Come vedete, questi sono i mosaici che vengono corrosi dall'acqua alta. Sto per mostrarvi che cosa va sotto ogni volta che c'è un'acqua alta. Oggi è particolarmente alta, quindi sta allagando mezza città. Però purtroppo la basilica va sotto. Questa è la testimonianza, no? Luca Zaia. Piovosità del 2010, della grande alluvione che ha alluvionato 235 comuni, e di Vaia, la famosa tempesta dei boschi, quindi più pioggia anche di quei due grandi eventi. E ancora Zaia dice: bisogna dare più poteri al sindaco di Venezia. È l'occasione per tornare a dire che bisogna riportare tutte queste competenze in capo al sindaco di Venezia, perché poi l'autorità che lì vede la laguna, la conosce, e soprattutto al centro maree come comune in grado di gestire tutta questa partita. Così dunque Zaia sul maltempo. Andiamo al traffico, va, poi un altro paio di cose da farvi sentire, di cui parlare. Ultimo paio di elementi. Ieri, come vi dicevo, Mariana Boschi da Lilli Gruber che le fa una domanda su quella foto che la ritratta su chi insieme al suo fidanzato senza mascherina. Sentite qua, va. Senza la mascherina. No, avevamo la mascherina abbassata, ce l'avevamo, sì. Abbiamo abbassato la mascherina essendo noi due da soli e diciamo sicuramente congiunti, ormai possiamo dire, visto che stiamo insieme, come tante coppie eravamo all'aria aperta, una passeggiata da soli, avevamo la mascherina, l'abbiamo abbassata per fare un selfie e poi l'abbiamo rimessa. A differenza di altre persone, perché ha preso la multa, siamo però, seguiti. Per aver fatto... No, non abbiamo preso la multa. E no, siamo, voi no, ma altre coppie, diciamo, sì. Non abbiamo preso la multa perché l'abbiamo abbassata per un minuto e rimessa su, non eravamo senza. A differenza di altre coppie, evidentemente ci sono delle fotografie che hanno preso quel momento, ma sicuramente noi rispettiamo le regole, ce l'avevamo, l'abbiamo abbassata un minuto e l'abbiamo rialzata. Dopodiché io la ringrazio perché mi ha consentito anche di fare questa precisazione. Sì. Detto questo, credo sinceramente che con centinaia di morti che abbiamo e quello tutti i temi importanti di cui stiamo discutendo, mi piacerebbe parlare appunto di come utilizziamo i soldi del recovery fund più mascherina. Scusi, questo devo... mi fa piacere, mi la ringrazio per la precisazione. Mi dispiace, ma su questo lei non ha ragione, volentieri. Perché lei è una persona pubblica e io non pretendo un di avere ragione. Dice, capito, dice Lilli Gruber, lei è una persona pubblica e poi sapete come la penso io, che non sono i politici che decidono le domande che facciamo noi giornalisti in onda, non è una cosa corporativa, lo decidiamo noi, che domande si fanno, anche se poi Maria Elena Boschi dice grazie a tutti per i commenti, quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta, per Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del recovery fund, mi spiace per gli ascoltatori che poi sono telespettatori, però questo era il tweet di Maria Elena Boschi. Andare alla vaccinazione in Gran Bretagna, vi faccio sentire solo un piccolo passaggio di audio dalla Champions di ieri, che è questo. You never say this white guy, you say this guy, so why when you measure me? Allora, questa è la voce di Dembaba per un caso che farà discutere sicuramente, perché la partita è quella tra Paris Saint-Germain e Başakşehir, squadra turca. Sebastian Coltescu, il quarto uomo, parlando con l'arbitro rumeno, Sebastian Coltescu, parlando con l'arbitro e indicando Achille Uebo, il vice allenatore turco, che è nero, dice negru. Dice quello negru, dice all'altro, che in romeno vuol dire nero, molto semplicemente. Si scatena un'ondata da parte del Başakşehir, dicono questo è un episodio di razzismo e alla fine decidono di lasciare il campo ricevendo anche la solidarietà del Paris Saint-Germain, perché il punto qual è? Il punto è che negru sì, vuol dire nero, però come dice Dembaba al quarto uomo, dice se fosse stato un bianco non ti saresti riferito a lui parlando del colore della sua pelle. La voce di Margaret Keenan. I'll say go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened. La prima donna ad essere vaccinata in Gran Bretagna, e siamo nell'Irlanda del Nord, dice a tutti di fare il vaccino. Pierluigi Struzzo, medico italiano in Inghilterra, è uno dei medici di base che poi avrà il dovere, per così dire, di fare il vaccino. Grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro, da voi è un orario peggiore perché siete alle 5:50. Struzzo, buongiorno, benvenuto, dottore. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, ma come mai siete arrivati così presto in Gran Bretagna a questo vaccino? Perché c'è Boris Johnson, cioè c'è soprattutto qua, c'è la mentalità della ricerca, della flessibilità, diciamo. Cosa adesso sono un po' debole anche per via della Brexit, per dimostrarlo, quindi ci sono anche ragioni politiche perché l'hanno fatto, però evidentemente se l'hanno fatto e hanno avuto la certificazione, e vuol dire che si potevano modificare i tempi, cosa che probabilmente l'EMA e l'FDA, che sono ancora rigidi, sono più rigidi probabilmente, non hanno fatto, oppure adesso stanno seguendo anche loro, ma l'Inghilterra è arrivata prima perché ha ridotto un po' i tempi delle varie fasi. Si partirà la parte massiccia, no, della campagna di vaccinazione che riguarderà anche lei, partirà da quel che ho capito il 14 dicembre, dottore? Questa sulla popolazione generale è già partita ieri sugli ospedali, sulle case di riposo, il personale delle case di riposo. Dai centri ospedalieri, cioè il problema è lo stoccaggio ovviamente dei vaccini, come si sa, i centri ospedalieri che hanno più possibilità sono partiti prima. E le case di riposo con gli anziani sono partiti ieri e il 14 partiremo noi nel senso che si formeranno questi grossi centri dove la gente verrà vaccinata e andranno centinaia e centinaia di persone, quindi non ci sarà la vaccinazione nella singola practice perché è impraticabile come faremmo l'antinfluenzale ad esempio. E quindi sì, il 14 partiamo. Sì, e ci sarà anche lei, no? Come sono organizzate queste strutture, dottore? Ve l'hanno già detto? Sì, no, no, sono dei centri, cioè sono stati, non so, degli ospedali oppure dei grossi magazzini o dei grossi centri che sono allestiti con frigoriferi, con percorsi per la gente per arrivare, quindi dove dentro ci saranno le nurse, le infermiere e i medici che a turno ci turneremo, diciamo, garantendo 12 ore al giorno, compreso sabati, domeniche, Natale, Capodanno, si vaccinerà, perché una volta tolta una scatola dal congelatore, dentro ci sono queste 195 fialette con 5 vaccini ciascuno, sono quindi 975 vaccinazioni che devono essere fatte nel giro di 3 giorni, perché altrimenti scade. Quindi quando tiri fuori la scatola dal congelatore devi correre. Esatto, ma non lo puoi portare a ogni singola practice, per cui le varie practice hanno deciso di affittare, quindi sono stati affittati circa 1200 credo centri di vaccinazione di comunità in tutta l'Inghilterra, ovviamente, dove noi la gente andrà direttamente a farsi vaccinare, noi stimoleremo la gente, telefoneremo, manderemo le lettere, eccetera, eccetera, perché la gente vada ai vostri assistiti. Esattamente, sì. Prima lo fa l'NHS, manda la lettera ufficialmente loro. Se la gente non si iscrive per tempo, noi dobbiamo garantire che vadano nel giro di 1 o 2 giorni, in pratica, capisci? Perché devono fare, non bisogna sprecare la parola d'ordine, non sprecare i vaccini, ovviamente. Stima di conclusione della campagna vaccinale, dottore, vi hanno dato un'idea? Il tempo, dunque, l'accordo, poi è stato fatto tutto veramente molto bene, ecco, hanno anche sollevato, ha aumentato il livello giuridico delle prestazioni che noi faremo, per, ovviamente, perché ci sono maggiori responsabilità, e l'accordo parte appunto dal 14 di dicembre fino al 31 di agosto del 2021. Okay. Quindi perlomeno entro questo periodo si pensa di fare il grosso della vaccinazione. A meno che non si riesca, magari, chissà, a finire prima, chissà. La ringrazio, dottor. Speriamo. La ringrazio, dottor Pierluigi Struzzo, per essere stato con noi dalla Gran Bretagna, medico italiano che pratica là, ovviamente. GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. A tra